Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, ben ritrovati ad una nuova puntata di Salva Danaio. Come vi avevo promesso ad inizio settimana, magari per qualcuno di voi si tratta anche di un incubo, stiamo continuando ad analizzare gli aspetti di maggior rilevanza per i piccoli risparmiatori emersi dal Forex di Napoli, dove lo scorso fine settimana ha tenuto, come ricorderete, la sua relazione il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Abbiamo toccato il tema dei mercati, gli scenari disegnati dal governatore, la Grecia. Ieri siamo andati sul tema del rapporto banca-cliente, il nuovo intervento chiesto da Draghi sulla commissione di massimo scoperto. Dopo la relazione di Draghi, domenica mattina si è svolto invece un convegno per analizzare le prospettive finanziarie, il tema del rilancio economico italiano e di come il credito in Italia dovrebbe accompagnare questo rilancio. C'erano sul palco due banchieri italiani molto importanti, Corrado Passera, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, e Alessandro Profumo, l'amministratore delegato di Unicredit. A moderare questa tavola rotonda un collega, Fabio Tamburini, direttore di Radio Core, che è l'agenzia di news del Sole 24 Ore, che ad un certo punto ha fatto ai due banchieri questa domanda. Le banche, secondo voi, sono tornate a fare operazioni di finanza speculativa? Sono tornate ad avere la tentazione di fare facili profitti? Sentite cosa ha risposto l'amministratore delegato di Unicredit, Profumo. Penso che alcuni player lo stiano facendo. Non associo una valenza totalmente negativa al termine speculativo, bisogna ben capire come funzionano i controlli delle loro autorità, perché qua non è, diciamo, non esiste il buono e il cattivo, esistono appunto delle regole. Mi piacerebbe molto avere un piano di gioco livellato sulle regole, quantomeno in Europa, perché devo dire è un po' imbarazzante che un concorrente che ha ricevuto dei fondi pubblici rilevanti per essere salvato, non è un concorrente italiano, faccia raccolta facendo grande pubblicità sul breve termine, pagando circa il 3% sui depositi a vista e chiaramente facendo mismatching di bilancio, perché oggi con l'Euribor a un mese allo 0,427, se non ricordo male l'ultimo numero, e a tre mesi a 0,61, se tu fai raccolta a vista e paghi 2,50 o 3, per definizione stai generando una perdita che sta fra i 2,5% e i 2%, no? Quasi per definizione. Se ci fai anche su una grande pubblicità e spendi dei bei soldi, aumenti la perdita. Allora, qualcuno mi deve venire a raccontare come funziona questa storia. Allora, quindi in sostanza Profumo dice: come facciamo, non so come facciano questi attori, e hai specificato sono gli stranieri che operano in Italia, a garantire queste remunerazioni così consistenti sui depositi, a noi non è permesso. Poi cercheremo di capire perché non è permesso in Italia. Ci sono però anche banche italiane che attirano molti clienti con proposte vantaggiose sui conti di deposito, e comunque Profumo ha fatto un riferimento esplicito agli attori stranieri, e noi allora abbiamo interpellato i diretti interessati. Benvenuta a Salva Danaio, a Bernd Geilen, General Manager di ING Direct Italia. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie di essere con noi, per la prima volta tra l'altro dai microfoni di Salva Danaio. Tedesco-olandese, se non ricordo male. Tedesco. Tedesco soprattutto, e olandese perché naturalmente rappresenta questa grande azienda olandese, e tra l'altro abbiamo anche il supporto di una collaboratrice, perché Bernd parla molto bene l'italiano, però comunque si sta addestrando la nostra lingua da un anno e mezzo circa. Da quanto è in Italia, Geilen? Più di 2 anni. Più di 2 anni, quindi sì. Però insomma passare dal tedesco all'italiano non è semplice, ma il monito di Profumo si rivolgeva a voi, era più chiaro. Come ha reagito quando ha letto sui giornali di questa cosa, Geilen? Per me non era una cosa nuova. E infatti. Perché abbiamo sentito questi argomenti già da tanti anni, ma non abbiamo cambiato nostra strategia in Italia. E siamo inutili da tanti anni. Dopo il periodo di lancio siamo positivo. E anche quest'anno siamo positivo in Italia e non siamo inutili, come ha detto Profumo. Allora, insieme a Bernd Geilen Lo ribadiamo, appunto, Profumo si rivolgeva particolarmente a loro, però c'è un altro grande attore straniero che opera nel nostro paese da diverso tempo, sta lanciando peraltro anche tanti prodotti, sempre rivolti a quei risparmiatori che vogliono mantenere molto liquido il loro risparmio in questo momento. Pietro Danzi, direttore generale di Barclays in Italia, buongiorno. Benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno. Anche Barclays reduce da conti strabilianti, insomma, tra l'altro proprio i conti di Barclays da due giorni state tirando tutti i titoli finanziari in tutta Europa, per cui insomma anche un sospiro di sollievo per le borse. E allora noi faremo questa conversazione, però adesso, al di là del fatto di commentare un po' questa dichiarazione di Profumo che ci interessa relativamente, più che altro ci interessa capire come funzionano questi conti di deposito, per quanto anche sarà possibile mantenere queste remunerazioni. Per la verità, mantenere, sono piuttosto basse se consideriamo che un anno e mezzo fa viaggiavano anche tra il 4 e il 5% e chiaramente si sono dovuti ridimensionare questi rendimenti alla luce del calo del costo del denaro, appunto, in tutta Europa. E quindi quali sono le proposte attuali e come si possono orientare anche i risparmiatori che cercano prodotti di questo tipo? Ovviamente il numero verde per voi, non l'ho ancora ricordato, è l'800 24 00 24, per intervenire in diretta, ma ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Diamo un'occhiata alla borsa questa mattina. Ieri giornata positiva, bene anche Wall Street, che è stata trainata dal settore immobiliare e dai dati sulla produzione industriale, che sono risultati in crescita per il settimo mese consecutivo, per cui tenta di tirarsi fuori dalle secche l'economia americana, ma è sempre un po' la disoccupazione quell'elemento che preoccupa di più. In ogni caso, ieri bene l'America, stamattina un po' più prudente l'apertura per i mercati europei, ma adesso hanno già cambiato direzione e sono di nuovo tutti positivi. Parigi più 0,30, Francoforte più 0,30, Londra più 0,58, Milano più 0,04%, il FTSE MIB un pochino più tranquillo. Continua a correre Mediolanum, tra l'altro un'altra società che ha un altro conto di deposito da una struttura un po' particolare, il titolo sta guadagnando il 3%, STM più 1,94%, Unipol più 1,56% e Mediaset più 1,49%. Stamattina invece è Fondiaria ancora a trascinare giù il listino. Fondiaria sta andando male da qualche giorno, anche oggi mette a segno un ribasso di 2,5 punti, adesso Ansaldo meno 1,55%, poi abbiamo Fiat in calo con tutto il settore auto in Europa, per il Lingotto meno 1,27%. Ci sono stati i conti di Daimler Chrysler che non sono piaciuti molto al mercato e quindi oggi di nuovo in discesa i titoli del settore auto. Oggi arrivano molti dati economici dagli Stati Uniti, le preoccupazioni sulla Grecia continuano ancora a così influenzare il mercato dei cambi, l'euro sul dollaro oggi euro di nuovo in discesa sul dollaro a 1,3571. Abbiamo una notizia che riguarda l'oro, perché il Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato che darà via ad un programma di vendita di oltre 191 tonnellate di oro per raccogliere nuove risorse, una vendita che avverrà gradualmente, ma questo ha determinato un arretramento dei prezzi e delle quotazioni dell'oro stamattina a $1,100 l'oncia. Comunque stiamo viaggiando su livelli sempre piuttosto sostenuti. Allora, lasciamo la borsa, andiamo al tema di questa mattina, parliamo di questi misteriosi, ma non tanto, conti di deposito, perché a giudicare da come sono state le tendenze recenti dei risparmiatori italiani, altro che mistero. Bernd Gailen, ING Direct, in realtà c'è stato un grande consenso da quando voi siete arrivati in Italia intorno al vostro prodotto, che ha dato anche una bella scossa alla concorrenza italiana qualche anno fa. Arrivava questa novità, il conto di deposito, chissà che cos'è. Sì, così siamo adesso più o meno 9 anni in Italia, e il conto arancio era veramente un'innovazione nel mercato di depositi, e fino ad oggi abbiamo più di 1 milione clienti con un conto arancio, e il conto arancio è un prodotto semplice, e questa è anche la ragione perché possiamo offrire un buon tasso con il conto arancio, perché i costi sono più bassi rispetto a tutte le altre banche in Italia. Diciamo questo che è il nostro vantaggio. Il primo risparmio della banca è quello di non avere sportelli sul territorio, sì, chiaro, per cui chiaro. L'apertura, la chiusura e tutte le operazioni fatte solamente su internet permette di abbattere molti internet costi. Internet e anche telefono, chiaro. Lei, quando parla di conto di conto arancio, parla proprio del conto di deposito tradizionale, perché poi avete avuto anche la trasformazione in conto corrente vero e proprio. Questa è una trasformazione molto recente. Sì, ma questo è il nostro conto corrente, è un prodotto diverso. Abbiamo per il nostro cliente adesso più o meno tutta la gamma, siamo una banca completa, abbiamo il conto corrente, abbiamo il conto deposito, il conto arancio, abbiamo i mutui. E abbiamo investito tanti nell'area dei mutui negli ultimi 4-5 anni. E abbiamo anche il trading online, i fondi comuni. Mm-mm. E questo sono tutte le prodotti che si è ampliata. Quindi volete servire la clientela a 360 gradi. E allora come si fa ad avere dei tassi, dei rendimenti, delle remunerazioni, a garantire delle remunerazioni abbastanza interessanti, appunto? Su che cosa investi ING Direct per fare queste promesse alla clientela, visto che questa era la domanda di Profumo? Forse lui lo sa, ma magari i clienti no. Sì. Ho già detto che il nostro vantaggio sono i costi. Poi abbiamo una strategia di investire, e questa strategia non abbiamo cambiato dall'inizio. Mm. Che vuol dire che noi studiamo il comportamento dei nostri clienti. E noi sappiamo che più o meno il 50% dei soldi sono veramente stabili, e un'altra parte è veramente flessibile, perché è un prodotto liquido e si può prelevare i soldi ogni giorno. E su base di questi risultati possiamo investire i nostri soldi. E che vuol dire? Non facciamo un mismatch. Perché alla fine non è un mismatch, la duration dei soldi è più o meno equilibrato, e questo tra l'altro non è, tradurre non anche mismatch. Per gli ascoltatori il mismatch è sì. Piuttosto complicato, però in sostanza lo spiegava anche la stampa lunedì scorso, proprio riportando di queste dichiarazioni di Profumo, è il disallineamento. Una banca riconosce, Pietro Danzi, magari lei con l'italiano, il disallineamento temporale delle scadenze. Esatto, quindi una banca può sostenere un investimento e investe a lungo termine, sì. In sostanza titoli esatto. A lungo termine. Allora, lei di questa polemica che ne pensa, Barclays Italia? So che non riguardava voi, tra l'altro non è stata neanche una polemica, forse anche una forzatura infatti, giornalistica, infatti. Però di fatto ha ma sollevato io credo un bel po' di interesse. Ci sia un punto che è assolutamente corretto da parte di Profumo, cioè non c'è dubbio che il costo finanziario è legato al parametro di mercato, che può essere un tasso, di solito si parla di Euribor, ma senza essere complicati c'è un parametro di mercato di riferimento che vale intorno allo 0,60. Quindi una banca che riesce a offrire ai clienti il 2,50 sta andando incontro, da un punto di vista tecnico, su quel prodotto, esatto, una perdita. Esatto, se facciamo solamente un calcolo matematico, ecco, facendo un è calcolo naturale, matematico, certo. Questo, cioè, Profumo ha assolutamente ragione. Dal punto di vista di Barclays, noi infatti facciamo proprio questo. Noi abbiamo deciso di aprire filiali e quindi diventare una banca retail a tutti gli effetti. Siamo pronti anche a comprarle, ma insomma è difficile che una banca straniera vengano vendute le filiali, ci stiamo provando ma senza grande successo. Ah, ci state provando, ci dando una bella notizia. Anche offerte per allora, banche anche note, però finora non siamo riusciti. Dovrò scavare su questa cosa. Sì, è vero. Ecco, quindi le stiamo aprendo, abbiamo 200 sportelli, e per noi il modo di avvicinare i clienti è quello di offrirgli delle condizioni che sono chiaramente interessanti, subendo una perdita, quindi noi prendiamo la perdita su quel prodotto, quindi su questo non c'è nessun dubbio. Evidentemente noi facciamo dove compensate? Ma allora innanzitutto facciamo molto meno advertising, marketing da un punto di vista di presenza televisiva, radio. Noi giochiamo a livello locale, diamo alle nostre filiali un'arma potentissima che è queste condizioni favolose per il cliente, e questo è il nostro marketing. Quindi abbiamo fatto una scelta consapevole di trasferire tutto il vantaggio, invece di spendere 20 o 30 milioni di euro di marketing l'anno. Certo, voi lo diamo anche ai clienti. Promotori finanziari, noi abbiamo filiali, anche evidentemente, quindi ING, avendo invece una struttura diversa, chiaramente forse deve poggiare più sulla pubblicità. Certo, no, ma infatti solo e quindi per questo, fare questo assolutamente. E poi cerchiamo ovviamente di avere un rapporto a 360 gradi con il cliente, perché noi l'anno scorso, se prende l'ultimo trimestre, siamo stati il terzo operatore in Italia in termini di erogazione di mutui, siamo presentissimi sui mutui, quindi rimaniamo vicini alle famiglie e lavoriamo con il cliente. Quindi il cliente dovrebbe venire da noi, avere un conto molto interessante e poi cominciare a fare con noi dei ragionamenti più ampi su come investire, su come allocare la sua ricchezza in qualche modo, e lo supportiamo anche sulla parte, quindi un ragionamento certo, quindi totale diciamo col cliente. Il conto corrente in qualche maniera è il primo aggancio con il cliente, aggancio, si vuole, ma naturalmente per poterli oggi abbiamo una esatto. Flessibilità, e su anche una mobilità negarlo, molto alta, abbiamo per cui bisogna un costo finanziario. Conquistarli, certo. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, stanno cominciando già a segnalarci appunto dal centralino numerose telefonate, poi ci sono anche tantissimi messaggi, adesso io comincerò a leggerli ai nostri interlocutori per farci anche poi raccontare che tipo di progetti hanno ulteriori per il nostro paese, appunto anche per la propria clientela, perché tra l'altro molto spesso un'altra domanda che i clienti si fanno è sì, magari io divento oggi correntista o cliente o di ING o di Barclays o di altre, e però poi le condizioni migliori si offrono sempre ai clienti nuovi che arrivano, quindi per i vecchi perché non si migliorano magari le condizioni, strada facendo, perché il rapporto non si migliora. messaggi qua, mi ero anche distratta e tolta le cuffie per leggere i messaggi che stanno arrivando da parte degli ascoltatori, anche le richieste di intervento all'800240024. Allora, ripeto un po' e ricordo di cosa stiamo parlando questa mattina: dei conti di deposito, strumenti che hanno avuto un largo successo negli ultimi anni, che sono stati utilizzati da molti risparmiatori, un po' magari perché a volte si ha una propensione alla gestione del risparmio semplice, quindi si vuole anche il prodotto più semplice di investimento. Nell'ultimo anno forse la tendenza a ricercare i conti di deposito è stata diversa. Parcheggiamo la nostra liquidità, in molti hanno detto, in attesa di schiarite sui mercati. Pietro Danzi di Barclays, è stato così anche per voi? Avete notato un atteggiamento di questo tipo? Assolutamente sì. E se sì, la borsa riprende, come dire, ecco, ad essere più trasparente, infatti, più trasparente, almeno nella prospettiva, perché adesso ancora non sappiamo come. No, ma infatti, allora, l'anno scorso, gli scorsi due anni sono stati un periodo particolare. La gente, i clienti volevano sicurezza, volevano avere un rendimento magari basso, ma certo. E quindi tutti questi conti di parcheggio della liquidità a breve termine sono stato il modo più evidente per investire i loro soldi. Peraltro questi strumenti di deposito comunque offrono rendimenti superiori a titoli di Stato a scadenze simili. Infatti, quindi conviene andare su un conto di deposito piuttosto che magari comprare un bot. Però già nel 2009, da marzo, i mercati hanno fatto un rally straordinario, e quindi io vedo dei clienti che hanno avuto il coraggio di riaffacciarsi alla borsa magari con degli strumenti a capitale protetto, che hanno fatto dei rendimenti che sono di gran lunga superiori al 2, 2,5, 3 che possiamo offrire sui nostri conti di deposito. E quindi credo che questo sia di nuovo un momento sul quale i clienti devono, con la loro banca e con i loro consulenti, cominciare a fare un ragionamento intelligente. Quindi è un concetto di nuovo di asset allocation: non possiamo mettere tutti i nostri soldi in borsa, nessuno di noi deve diventare uno speculatore, perché evidentemente è rischioso. I time deposit hanno sempre un loro valore, però esistono strumenti finanziari che proteggono il capitale e ti danno una possibilità di upside e quindi di prendere alcuni dei vantaggi della borsa che potrebbe ripartire, e sono dei ragionamenti che un cliente attento dovrebbe cominciare a considerare. Allora, poi tra l'altro, proprio alla luce di questa nuova prospettiva, avete lanciato dei prodotti recentissimi, poi ce li racconterà dottor, certo, Danzi. Ben Gailen, General Man, ma stamattina non riesco a dirlo, parlo peggio di lei in tedesco in sostanza. No. Ben Gailen, General Manager di ING Direct in Italia. Molti ascoltatori dicono di apprezzare moltissimo i vostri prodotti, d'altronde il successo di questi ultimi anni del vostro modello lo abbiamo raccontato più volte, e però i vecchi clienti si lamentano sempre del fatto che voi ovviamente cercate di conquistare nuova clientela, ma per la vecchia clientela invece non fate niente, o comunque non fate magari delle promozioni periodiche. È davvero così? No, abbiamo più o meno allineato il nostro pricing, i nostri prezzi, e anche per i vecchi clienti è possibile raggiungere un livello di 2,50% per i nuovi soldi, ma abbiamo anche un prodotto nel conto arancio e arancio più, è possibile raggiungere un livello di più di 2,50%. E con questo pricing, con questi prezzi siamo veramente trasparenti. E per noi è sempre una sfida di lavorare senza promozione, ma questa non è una cosa non particolare per le banche. Ci sono anche nell'area di telefono, di cellulare, c'è un modo di fare il marketing, e per noi abbiamo scelto per questo modello, e penso che la cosa più importante è di essere chiaro con i prezzi, e questo facciamo per esempio con nostra pubblicità, diciamo i tassi promozioni, ma diciamo anche gli altri tassi. E questo è veramente importante, di quindi, essere trasparente. Secondo lei condivide l'analisi che ha fatto Pietro Danzi poco fa, cioè che comunque la clientela che in questo momento mantiene del denaro sul conto di deposito è in attesa di una ripartenza chiara della borsa? Perché sì, sappiamo benissimo come sono andate le cose lo scorso anno, c'è stata addirittura una crescita al 60, 70, 80%, 100% di qualche listino, però qualcuno non è riuscito a prendere questa corsa della borsa. E adesso che cosa succederà? I conti di deposito perderanno appeal e tutti si riverseranno sul mercato? Cosa potrà succedere a questo settore, secondo lei? No, penso di no. Il bisogno di essere liquido è ancora veramente alto. E non vediamo una crescita stabile nel conto deposito, ma per esempio abbiamo lanciato un fondo comune, un borsa protetta nel gennaio, e abbiamo visto che tanti clienti hanno veramente scelto per questo prodotto. Non è ancora un un modo di essere veramente in rischio e di investire. Eh sì, perché se la borsa scende voi penso limitate questo, la sì, discesa. Sì, questo modo cresce e, per i nostri clienti è anche possibile di fare trading con tanti prodotti, ma di essere liquido in questo momento è penso è un buona scelta. Allora, sentiamo un paio di ascoltatori, poi ritorniamo a Barclays. Mario da Napoli, volevo sentire lei perché ha difficoltà a trovare delle agenzie di quale gruppo a Napoli. Mario, buongiorno. Signora, noi a un certo momento abbiamo sentito la trasmissione, quindi volevamo sapere con precisione quali possono essere naturalmente le banche nella nostra zona che praticano queste condizioni, perché non siamo all'oscuro di tutto. Accidenti Mario, possibile che a Napoli addirittura c'è stato il Forex, il governatore della Banca d'Italia questo fine settimana? Allora, intanto sono sicuramente internet il canale principale dove si possono trovare tutte le informazioni, però Pietro Danzi, mi aiuti lei, Barclays a Napoli? A Napoli abbiamo tre filiali, ecco. Una a Piazza Colonna, via Kerbacher, l'altra via Pazienza, ma non mi ricordo l'indirizzo. Avrò un po' di pazienza, ci mancherebbe, 1200, non si ricorda neanche il terzo. Però nelle nostre filiali a Napoli lei può trovare queste condizioni. No, infatti mi sembra strano. Diciamo che forse Mario adesso dice sono all'oscuro. Questi sono modelli forse che magari, non so se è ancora una considerazione valida da fare, di certo è, non lo so se è un modello per un risparmiatore, perché c'è ancora chi è l'affezionato allo sportello bancario, ancora si rivolge alla banca sotto casa. Comunque gli stranieri in Italia hanno veramente rivoluzionato il nostro modo di guardare la banca. Sì, però noi come banca siamo l'equivalente della banca sotto casa, nel senso che chi va a Napoli va nella nostra filiale, però come dicevo prima noi non facciamo una pubblicità fortissima, per cui chi non conosce la filiale, non è entrato, non sa di queste condizioni, deve entrare in filiale, deve chiedere, queste condizioni gli vengono dette. Colore azzurro è quello che vi contraddistingue. Il colore azzurro ciano e l'aquilotto ci distingue in modo evidente. E invece per trovarvi a Napoli, Gailen, come facciamo? Non siamo la banca sotto la casa, siamo nella casa, perché siamo aperto per tutti per 24 ore su 24 e siamo più o meno nella casa, nell'appartamento di gente che hanno un collegamento con internet. Oppure anche il numero verde con il telefono. Ci sono ancora tanti, 20-25% che fanno tutte le cose con il telefono. Telefoniche. Sì, sì. E siamo aperti per tutti il servizio anche nel telefono. E siamo più o meno veramente vicino ai nostri clienti e questo è il nostro modello. Allora, vorrei sentire adesso Roberto da Milano, che pare si trovi molto bene con ING Direct. Roberto, non mi faccia fare una pubblicità spudorata, sennò Danzi di Barclays non viene più da me. Però purtroppo devo, perché io sono partito con il conto arancio, diciamo, 6 anni fa. Poi piano piano ho fatto con loro, adesso ultimamente ho fatto il conto corrente, ma ho già anche il mutuo arancio, tra l'altro ho dovuto fare una surroga con loro ed è andato tutto benissimo. Adesso sono 3 mesi che ho fatto il conto corrente, anche lì mi trovo bene. Ma diciamo, no Roberto, lei mi dà il supporto per fare anche un'altra domanda. C'è chi guarda magari o chi guardava qualche anno fa queste novità che arrivavano sul nostro mercato con un po' di scetticismo, un po' come le assicurazioni online, no? Si teme di non avere il contatto con le persone e poi si scopre che funziona tutto regolarmente, Gailen, e nessuno lascia più questo modello. Io non dico tanto conto arancio, ma credo un po' tutti i modelli, ci sono tante aziende anche italiane che lavorano su modelli similari. E poi difficilmente, insomma, quando ci si accorge che al telefono e davanti al computer si può fare tutto esattamente come parlando con un dipendente, con un bancario. No, il nostro modello e anche la nostra offerta è veramente semplice. Questo è più o meno il nostro segreto di fare business. I nostri prodotti devono essere semplici. E penso per 80% degli italiani non hanno bisogno di comprare prodotti complessi e che hanno tante opzioni. E questo è, penso è anche una cosa che abbiamo imparato dopo la crisi, che è veramente, veramente importante di capire i prodotti e non di creare prodotti veramente complessi. Questo non facciamo, i nostri prodotti sono semplici e Adesso gli italiani hanno veramente una scelta di andare e pagare o di essere con non noi. Non è detto che debba per forza essere l'alternativa radicale e unica al conto bancario tradizionale, perché i rapporti d'anzi. Tra l'altro volevo tornare con lei magari ad un ricordo di quello che succedeva un anno e mezzo fa, quando sembrava che tutte le banche fallissero da un momento all'altro. Io faccio sempre questo esempio, sembrava che andando a dormire la mattina dopo potessimo trovare, c'era il rischio che trovassimo appunto le spranghe addirittura sulla vetrina della nostra banca, perché si temeva addirittura insomma che in un momento che tutte quante fallissero. Allora è circolata molto questa preoccupazione che per chi avesse per esempio conti con soggetti stranieri operanti in Italia, questi conti non avessero le stesse garanzie dei soggetti italiani, il famoso fondo interbancario di tutela dei depositi. Invece voi operando in Italia avete tutte le medesime garanzie. Sì, noi abbiamo le medesime, ma poi guardi, è una discussione che soprattutto con richiedenti di livello patrimoniale elevato, io pensavo a me stesso, no? E dico, ma caspita, se qualcuno mi dice che i miei depositi sono garantiti nella percentuale del fondo, io mi preoccupo per tutto il resto dei miei soldi, perché vuol dire che non hanno nessun tipo di garanzia. Mm-hmm. Quindi non c'è dubbio, e dobbiamo superare il concetto della banca che fallisce. Noi 2 anni fa, in particolare come Barclays in Italia, abbiamo vissuto in modo molto forte, anche perché questa era una spinta che i nostri concorrenti davano a volte ai nostri clienti, dicendo attenzione a Barclays perché rischia di saltare, delle pressioni enormi, e io ringrazio i clienti che ci hanno dato fiducia e hanno continuato a darci fiducia. Oggi viene fuori, anche con i risultati che lei ha ricordato di un paio di giorni fa, che abbiamo avuto record di utili, siamo una delle banche più capitalizzate di Europa, siamo l'unica banca inglese e una delle poche banche europee a non aver chiesto aiuti di Stato. Io credo che una volta per tutte il tema della solvibilità di Barclays e delle banche inglesi sia passato e andiamo oltre, quindi è veramente un discorso molto importante. Lì in quel frangente là ci siamo veramente spaventati assolutamente, tutti, quindi... assolutamente, ed erano discorsi molto molto complicati con il cliente. Però di nuovo, anche parlando di un rischio sistemico, il fondo di tutela dei depositi vale se fallisce una sola banca. Se falliscono tutte le banche crolla il sistema, che era il vero rischio di 2 anni fa. Poi ci sono scene da panico, ecco, il discorso per fortuna non abbiamo dovuto disegnare, e direi che questo è uno scenario ormai da fantascienza, ecco. Allora, stiamo ripartendo per l'ultimissima parte di Salva Danaio, abbiamo ancora 7-8 minuti. Oggi parliamo dei conti di deposito, dopo queste dichiarazioni che sono state diffuse nel fine settimana da Napoli dall'amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo, che insomma ha un po' il dente avvelenato, forse un po' troppo pesante da dirsi, però contro quei conti di deposito che nel nostro paese riescono a riconoscere dei rendimenti molto elevati alla clientela, però devo dire che ce l'hanno anche loro in casa loro, una società per cui però ce l'aveva in particolar modo con ING Direct, poi non l'ha detto chiaramente lì, ma i giornali sono risaliti insomma questo riferimento molto chiaramente, perché dice insomma questo soggetto opera nel nostro paese, ha ricevuto gli aiuti di Stato, come fa a garantire questi rendimenti? Detto questo, noi abbiamo lasciato subito le dichiarazioni di Profumo per andare invece a raccontarvi poi come funzionano questi modelli in Italia, che poi alla fine si possono anche contestare, ma hanno trovato un larghissimo consenso di pubblico per la semplicità d'uso e soprattutto per quei risparmiatori che vogliono avere sempre una grandissima visibilità sul proprio denaro, quindi non vogliono parcheggiare i propri investimenti su altri prodotti, vogliono avere la disponibilità soprattutto costante del proprio denaro sul proprio risparmio. Stamattina abbiamo scomodato addirittura i numeri 1 in assoluto in Italia di Barclays e di ING Direct, quindi Pietro Danzi e Bernd Gailen con noi, anzi soprattutto per voi. All'800 24 0024 arriva la domanda di Giovanna da Roma. Giovanna. Buongiorno a tutti. Purtroppo mi riferisco a una banca che non è presente in questo momento. Ma l'ho citata io un po' poco fa, però sì, ci dica. Infatti, volevo solo far presente che a novembre io ho cambiato il mio conto corrente da una banca ad un'altra banca che non ritengo necessario neanche nominare. Però lei, Giovanna, sta parlando di conto corrente, quindi non di conto di deposito, perché noi stamattina parliamo di una cosa precisa. Però faceva riferimento anche a un conto deposito, sì, in quanto il conto corrente aperto online mi garantiva nella pubblicità su internet e anche dopo aver ascoltato un promotore di questa banca, mi garantiva se facevo l'accredito della pensione lo 0,75. Oltre questo, in un conto deposito eventualmente per una cifra da stabilire, con il 2,30, 2,50, 2,90 a seconda della cifra, appunto su questo conto. Insomma, qual è la conclusione, Giovanna? La che poi le promesse non sono. Che io ho aperto il conto e dopo neanche un mese e mezzo mi viene invece detto, dopo aver aperto il conto, versato una cifra non indifferente, mi viene detto che lo 0,75 che era stato promesso per sempre non esiste più, ma diventa lo 0,25 dal primo marzo, e sempre dal primo marzo anche sul conto deposito quegli interessi non ci sono più, ma al massimo è lo 0,75. Beh certo, qui Giovanna bisognerebbe un pochino risalire anche alle promesse verbali che in questo caso dal promotore le sono state fatte, perché sa, se non c'era niente di scritto, se c'era scritto su un contratto che questa remunerazione dello 0,75 era permanente, e allora qua siamo di fronte ad una ad un non rispetto appunto di clausole contrattuali. In caso contrario, Danzi, chiedo un commento a lei adesso, a prescindere dal comportamento, è stato difficile in questi due anni mantenere le remunerazioni, lo abbiamo detto prima, per cui voi state partendo con un'offerta piuttosto interessante. Certo. Durerà? Ma guardi, noi a fine marzo abbiamo questa offerta sui time deposit che va avanti fino a fine marzo, da inizio aprile la modificheremo leggermente, ma rimarrà sostanzialmente allineata con le condizioni attuali, quindi non ci sarà nulla di sostanziale. Io l'invito che faccio, prendendo anche il punto della signora, è che credo che, ma questa è veramente una cosa che noi italiani dovremmo fare un po' di più, è quando non siamo soddisfatti cambiamo banca, perché è inutile lamentarsi o dire... Ma lei poverina già stava venendo da un'altra dalla quale non era soddisfatta, però quindi se lei tiene dovrebbe conto prendere, che oltre che ribaltare il promotore, perché... Il livello di fedeltà dei clienti italiani, che in generale si lamentano, è altissimo, è una cosa che anche rispetto ai nostri colleghi inglesi è impossibile fargli capire, siamo oltre il 90%, quindi tendenzialmente gli italiani si lamentano ma poi non agiscono. Il miglior modo per farsi tutelare, ma questo vale anche per i clienti di Barclays, è cambiare banca, nel senso che se la banca non rispetta i patti, ci sono tante altre banche, si cambia, e questo permetterebbe anche a noi di essere ben più aggressivi e più forti su questo. Quindi noi avremo delle condizioni estremamente interessanti sui time deposit e continuiamo a mantenerle, garantendo ovviamente la condizione per un anno, perché il time deposit va da periodi semestrali 3, 6, 9, 12 mesi. Quindi in sostanza che cosa proponete? Allora, noi daremo da marzo €5.000, allora, fino a 5.000 euro oggi, fino alla promozione che c'è fino a fine marzo, lei con 5.000 euro ha un, per 12 mesi ha un 2,60, se lei porta oltre 50.000 euro ha un 2,90, da primo di marzo allineiamo tutto sul 2,50, quindi lei avrà il 2,50 sui suoi 5.000 euro per un anno. Che è un po' simile al modello, adesso non so se faccio un errore, di che banca, sì, di Mediobanca. Anche voi siete partiti con il vincolo del deposito da poco, ING Direct, Gailen? No, non abbiamo non un, ce l'avete? Non mi ricordavo. Così. Non è simile. Invece la promozione di cui mi parlava prima, comunque eventualmente se una persona vi dà, credo, una disponibilità di cifra, riconoscete da adesso la remunerazione che sarà possibile avere a fine anno? Sì, per esempio, sì. Questo è un modo diverso. I soldi sono disponibili, non è un vincolo veramente forte. Totale, sì, perfetto, sì, capisco. Chiaro. Allora, chi sentiamo? Ci manca un minuto e mezzo di tempo, sono un po' in difficoltà. Quale preferiamo, Gaia? Sì, sentiamo ora Luigi da Milano, rapidissimo, operatore finanziario. Breve, Luigi, grazie. Sì, buongiorno. Domanda secca. Se fallisce ING o Barclays o qualunque altra banca tipo Lehman Brothers, ne abbiamo già parlato, sì. Che fine fanno i soldi? Che io sappia, nelle condizioni finanziarie il rischio è scaricato sull'investitore. Allora Luigi, dipende intanto che cosa c'hanno, che tipo di rapporto c'è. Se parliamo puramente di conto corrente, l'abbiamo già specificato prima, adesso non dovremo più avere di fronte a noi scenari di questo tipo. Danzi, ritorniamo un po' sulle garanzie. No, ma guardi, io veramente direi, capisco la domanda, questa domanda era molto di moda 2 anni fa. Io veramente mi sento dire Barclays non fallisce, nel senso che abbiamo un tier 1 che è superiore al 10%, siamo la banca più capitalizzata d'Europa, abbiamo comunicato un utile ante imposte, l'abbiamo comunicato 2 giorni fa, di 11.7 miliardi di euro. No, ma poi io voglio dire, quindi, Lehman Brothers faceva un lavoro, una banca, esatto, che potrebbe che una banca esposta quasi esclusivamente nel settore commerciale, nel settore retail, non credo che nessuna autorità al mondo lascerà mai che si concretizzi un'eventualità di questo tipo. Gailen, vuole aiutarci a concludere? Sì, penso adesso abbiamo una buona situazione per i risparmiatori in Italia, hanno veramente la scelta fra modelli diversi, E ci sono tanti che fanno il cambio adesso. Infatti, se avete paura di questi soggetti stranieri grandi, ci sono le popolari, da noi c'è il credito cooperativo, ci sono le piccole banche sotto casa, ritorniamo a quel modello là, quindi ognuno ha assolutamente la scelta che fa al caso della propria propensione. D'altro canto, poi dicono sempre che manca la concorrenza in Italia. Le banche straniere portano la concorrenza vera, che non sono le banche straniere che comprano una banca in Italia e che si adeguano alle condizioni della banca italiana, sono le banche straniere vere. Infatti, sentite la musica, devo salutarvi. Grazie per essere stati con noi, a presto, buona giornata. Grazie a tutti. Buona giornata.